Click Chick Radio Wombat, martedì 6 novembre 2018, ancora per un po', e beh, vi siete spaventati, immagino, cioè siete corsi sotto il divano, sotto il letto, insomma, oddio, paura. Sì, in effetti abbiamo iniziato un po' col botto stasera, 20:41 se ci state ascoltando in diretta, un po' tardi, né vero, ma abbiamo lasciato spazio, parlo un po' col plurale maiestatis oggi, ho lasciato spazio a Reg 69 che si allargava, si distendeva, ma i fan più accurati, insomma quelli più affezionati o le più affezionate di voi si saranno resi conto che c'è stato un piccolo errore e la replica che avete ascoltato è la replica di 2 settimane fa. E vabbè, sono giovani, d'altra parte fanno questi piccoli errori, siamo alla terza puntata, insomma gli si può perdonare, ma per farci perdonare vi voglio rassicurare che in settimana andranno poi in programmazione le repliche della puntata nuova di Zecca, insomma, quindi motivo in più per sintonizzarvi su Radio Wombat ed ascoltarsela, visto che stasera non la siete sentita. Ma vabbè, non parliamo di Reg 69, anche se li saluto, ma parliamo di Slick Chick. Per iniziare vi ricordo innanzitutto la nostra frequenza sulle onde mediocri, 13:59 in AM, appunto onde medie. Se siete fortunati e fortunate da essere raggiunti dal nostro segnale, dal Wombat segnale, altrimenti per i plebei e i poveracci c'è il solito banalissimo streaming, e quindi per usarlo, cioè per usufruirne, potete andare sul sito wombat.noblogs.org, dove tra l'altro trovate la innovativa app sia per ascoltare lo streaming sia per visualizzare il podcast. Non sono sicurissima che quella per visualizzare il podcast l'abbiamo già messa su, ma intanto vi beccate almeno quella per lo streaming, insomma la tecnologia va lenta, noi siamo steampunk e che volete da noi. Ma insomma, parlavamo dell'inizio di questa trasmissione e della scaletta che ne deriva, e abbiamo iniziato con Carletto, il principe dei mostri. Beh, io penso che l'avrete un po' riconosciuto, chi ha degli alti riferimenti culturali, insomma, sicuramente avrà riconosciuto questo pezzo della storia della musica degli ultimi anni, in realtà degli ultimi decenni. Carletto, il principe dei mostri, che paura mi fa il titolo in particolare del brano che ci siamo ascoltati e che ci fa da cornice, ci dà un po' il là per la puntata di quest'oggi, che siccome è passato Halloween e a Slick Chick sempre dedico una puntata allo spunto che ci offre Halloween, non proprio la festa di per sé, che non me ne può fregare di meno, però insomma è una scusa per parlare di cose ombrose e tenebrose. Ecco, siccome lo faccio tutti gli anni, anche quest'anno, ma la settimana scorsa ero bellamente in vacanza e quindi non mi avete beccato, ma mi beccate un po' in ritardo la settimana dopo, quindi oggi, e per festeggiare appunto un po' la festa delle tenebre parliamo oggi di demoni. Vedremo sotto le varie declinazioni, ci hanno mille nomi, non è che ce n'è uno solo, e partiamo però dal termine, uno dei principali, ovvero il termine diavolo. Il termine diavolo deriva dal latino tardo, diabolus, e traduzione fin dalla prima versione della Vulgata, il V secolo d.C. siamo, del termine greco diabolos, ovvero dividere, colui che divide, ma anche calunniatore, accusatore. Derivato dal greco diaballo, a sua volta, composizione di dia, attraverso, e ballo, getto, metto. Quindi getto, caccio attraverso, trafiggo, ma metaforicamente volendo anche calunnio. Questo ci dice la coltissima Wikipedia. Devo dire che le pagine di Wikipedia riguardo ai demoni fanno un po' schifo, ma io non avevo grandi altre fonti, o meglio, non avevo molto tempo per indagare più a lungo. Certo, sarei potuta andare nella biblioteca di Oxford o banalmente alla Marucelliana, ma non ce la facevo, e quindi vi beccate queste informazioni dozzinali. Nell'antica Grecia, diabolos era un aggettivo denotante qualcosa o qualcuno calunniatore e diffamatorio, come si suggeriva prima. Fu usato nel III secolo a.C. per tradurre nella Septuaginta, sì, detto bene, madonna che parola, l'ebraico Satan, ovvero avversario, nemico, colui che si oppone, accusatore in giudizio, contraddittore, reso poi negli scritti cristiani come Satanas e inteso appunto in questi scritti come avversario o nemico di Dio. Vedremo che poi in realtà non tutti vedevano questa contrapposizione di il bene contro il male, Dio contro il diavolo, o soprattutto non c'era proprio la contrapposizione spesso, cioè magari le cose andavano di pari passo e il demone non era necessariamente solo buono, ma ci arriveremo piano piano. Il termine demonio deriva dal latino tardo demonium, invece, traslitterazione del greco daimonium, e quindi sempre dal greco daimonios, appartenente agli dei, che è in rapporto con un daimon, quindi ammirabile, sorprendente, e quindi collegato a daimon, il cui significato originario in lingua greca è quello di demone, un'entità soprannaturale neutra, cioè che poteva essere sia benevola che malevola, come appunto accennavo prima. Ma è poi stato soltanto col cristianesimo che si è assunto esclusivamente un significato negativo, si è dato questo significato esclusivamente negativo alla parola demone. Infatti il termine greco del Nuovo Testamento è presente sia con l'originale senso neutro di divinità che con quello di angelo caduto. Non avevamo dubbi del resto che il cristianesimo aveva ci aveva messo le zampe e aveva tradotto in questi termini. Non è affatto banale questo dettaglio, e insomma, che ve lo spiego a fare, vi sarà chiaro, mi sembra che non ci sia molto altro da aggiungere, ed è evidente che poi su questa dicotomia e su questa anche banalizzazione sono stati posti dei pilastri che ancora adesso ci schiacciano. Partiamo subito con un po' di musica, onde evitare che mi si secchi completamente la gola, e vi faccio ascoltare Little Demon, perché a proposito di demoni non poteva mancare Screaming Jay Hawkins, quindi del 1957 appunto la sua Little Demon. Foggy Hill Rock stood a crazy little demon blowing his top. Fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a soul for the one he loved, so he had death on his mind, cause my demon let him go. He gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get Miss Demon home again. He did up, he even pushed back time. He took the 2D out of Fruity, had the devil drinking wine. He did she finally got across to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. Hear the mop, mop, mop, mop. Night bought in afternoon, he made leap year jump over the moon. Took the 4th of July, he put in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a di questi balbettii indemoniati stasera ne sentiremo un bel po', quindi abituatevi, fateci il callo e non vi spaventate, insomma sarà una puntata un po' orrorifica. D'altra parte non è che si può sempre parlare di mio mini pony, no? Che io sono sempre ridente in questa trasmissione. Allora, adesso appunto vi faccio sentire un pezzo che vi ammazza, vi stronca subito, e ve l'ho messo proprio in apertura perché così, no? Cioè, se volete cambiare radio immediatamente e mettere una radio commerciale, forse siete in tempo, insomma. Allora, ma torniamo un attimo, prima di lanciarvi il pezzo, torniamo alle nostre nozioni da quattro soldi, ovvero abbiamo parlato dei demoni, abbiamo parlato del diavolo, cioè di questi nomi che venivano dati. Ecco, Satana, parliamo anche un po' di Satana, è importante. Satana, dall'ebraico Satan, traslitterazione del masoretico Satan, appunto, che voi non potete apprezzare ma è scritto diverso e quindi fatevelo bastare, dal greco koine Satanas, dal latino Satanas, l'aramaico Satana e l'arabo Saitan, insomma più o meno sempre quello era il termine. È un termine che identifica uno o più demoni o divinità minori in molte religioni del Medio Oriente e del Vicino Oriente antico. Ha le sue origini nel monoteismo ebraico e contiene antiche influenze delle religioni caldee, soprattutto dello zoroastrismo. E qui ci sarebbe da aprire una parentesi lunghissima parlando appunto di della religione appunto dello zoroastrismo e di che cosa racconta di Satana e dei demoni, ma non ho un mese a disposizione e quindi fatevelo bastare, andatevelo a ricercare da soli. Nelle religioni abramitiche derivate da quella ebraica, appunto, la figura di Satana diventa l'incarnazione oppure diciamo l'agente del male in contrapposizione a Dio, considerato invece il principio del bene. E quindi, insomma, in realtà prima ancora dei cristiani, poi se andiamo a vedere bene, erano già il monoteismo ebraico che faceva questa contrapposizione, che appunto ha iniziato a introdurre questo concetto di demone come un qualcosa che si contrappone al bene, appunto il male che si contrappone al bene, eccetera eccetera eccetera. Il brano che ci introduce a Satana è Litanie a Satana del Giardino Violetto. Immagino che sia non lo so, non gliel'ho mai chiesto, ma credo che sia un diretto omaggio a Diamanda Galas, che anch'essa aveva fatto un lunghissimo e bellissimo brano musicale, una composizione bellissima che si intitolava appunto esattamente allo stesso modo, ma gli anni erano più o meno gli stessi. L'album da cui è tratto Litania a Satana del Giardino Violetto è Dance Macabre del 1989, è un demo tape veramente, se dobbiamo dirla tutta. E il Giardino Violetto, per chi non lo conosce, è un duo apparso così, leggo proprio dal loro sito, un duo apparso fugacemente sul finire degli anni 80, due voci, una batteria elettronica, chitarra, basso e tastiera, suoni acidi e ripetitivi, atmosfere gotiche e sepolcrali, mi sento di sottolinearlo, lo vedrete, un imperdibile cult postumo dell'underground romano di cui si ricorda un'unica efficace performance live al Wanna Club. Cioè, questa cosa è bellissima perché effettivamente il Giardino Violetto ebbe una certa notorietà, ma tutt'oggi insomma sono piuttosto conosciuti, ma ci si ricorda soltanto un'unica performance, non hanno fatto altri concerti. Però poi si sono riformati, se non erro, un paio di anni fa, comunque insomma molto di recente, li abbiamo avuti anche a Firenze, al Next Emerson suonato, e quindi insomma sono di nuovo nel mondo dei vivi per, beh, più o meno, insomma, perché le sentirete, per raccontarci un po' la loro musica e soprattutto inneggiare a Satana. Questo appunto è Litanie a Satana del Giardino Violetto. Thank you. brutta miseria. Abbi pietà della mia lunga miseria. Oggi faccio concorrenza a 8 Hertz, ma non è che non vi avevo avvertito, non potete dirmi niente. Lucifero, beh, dobbiamo arrivare anche a Lucifero, no? Cioè, ve l'aspettavate d'altra parte. Allora, il termine significa letteralmente portatore di luce, si capisce, no? Lucifero, insomma, è facile. Tale denominazione deriva dall'equivalente latino Lucifer, composto da lux, luce, e ferre, portare, sul modello del corrispondente greco fosforos, fos, che è luce, e perein, che è portare. E in ambito sia pagano che astrologico indica la cosiddetta stella del mattino, cioè il pianeta Venere che è visibile all'aurora ed è anche identificato appunto con il nome di stella del mattino. Nella corrispondenza tra divinità greche e romane, l'apparizione mattutina del pianeta Venere era impersonificata dalla figura mitologica del dio greco Fosforos e del dio latino Lucifer. Analogamente in Egitto Tiumutiri, chissà, era la Venere mattutina. Il diavolo e Lucifero nell'arte paleocristiana è rappresentato come un serpente in accordo con il libro della Genesi. Nel Medioevo, in seguito all'identificazione operata dai padri della Chiesa, è rappresentato come un mostro terrificante a tre teste. A partire dal X secolo si presenta invece con ali spezzate per ricordare la sua caduta dal cielo e con le corna in testa, simboli del paganesimo sconfitto. Anche questa cosa io non la sapevo, mi ha stupito assai. Le ali di pipistrello, emblemi di degradazione della virtù angelica, vengono introdotte con le invasioni dei mongoli che introducono elementi dell'iconografia orientale, come nel Lucifero dantesco dell'Inferno, nel canto 34esimo, che appunto inizia a introdurre questa, per la prima volta almeno, questa caratteristica. Anche il dio Pan è all'origine di alcune caratteristiche del demonio: il corpo peloso, gli zoccoli e le corna di capro. L'iconografia del diavolo, fissata dagli artisti tra il XIII e il XIV secolo, è derivata poi dai testi apocalittici e apocrifi. Tra gli esempi più famosi c'è il Lucifero giottesco della Cappella degli Scrovegni e quella di Coppo di Marcovaldo nel Battistero di Firenze, che se non ve lo ricordate, ma insomma, se ci state ascoltando, probabilmente avete modo di andarlo a vedere vicino a casa vostra, andate a vederlo perché è meraviglioso. Gli animali che divorano i dannati accentuano la natura insaziabile di Satana. Il motivo di Satana con la bocca divorante riflette un'antica concezione della divinità come principio nel contempo creatore e distruttore, e si ritorna un po' all'ambivalenza che forse un po' si era perduta. Le corna di Lucifero richiamano pure quelle del dio celtico Cernumnus, e appunto, come dicevamo anche prima, sono il simbolo della sconfitta del paganesimo da parte della Chiesa, cioè poi praticamente gliel'hanno rinfacciato per sempre nei secoli dei secoli, mettendo che i cattivi c'hanno le corna. È andata così, anche qui, insomma, pilastri che si costruiscono. Bene, questo era un po' quello che c'era da dire veramente in maniera bovina e approssimativa su demoni e quant'altro, ma insomma ce n'è ancora un bel po' da dire e soprattutto da ascoltare. Il prossimo brano è Demon Stuck in Your Eye delle Bachelorettes, l'album è Cries for the Flies del 2014, e le Bachelorettes, forse non ricordo adesso, ma forse ve l'ho già fatta sentire in un'altra puntata. Comunque sono una band garage, fondamentalmente punk garage messicana, di Guadalajara per essere precisi, fondata da Terry Genderbender, e sono uscite, anzi, in realtà per la Ipecac, e ormai sono abbastanza noti, ecco, hanno lavorato con tanti altri musicisti interessanti, e beh, secondo me sono da ascoltare. Stuck in your eye. You wanna get him out, but you just don't. Radio Wombat, se ci volete scrivere potete farlo alla casella mail postawombat@insiberia.net. Non ve l'avevo detto e ora lo sapete, ma magari lo sapevate già anche prima. Arriviamo a un altro demonio che è Eugene Chadbourne. Se non lo conoscete, sono contenta di presentarvelo in qualche maniera. Tanto è per cominciare, è un chitarrista e un bengista. Mamma mia, che bello il banjo! Abilissimo, cioè molto, molto tecnicamente molto bravo. Ecco, ma diciamo che di chitarristi bravi in realtà ce ne sono tanti. Parlando di Eugene Chadbourne, diciamo che questa non è la sua caratteristica che spicca di più, come dire, ecco, quando lo sentirete capirete. Ha suonato con Zorn, Tom Cora, Giallo Biafra, i Turbo Negro, Violent Femme, gli Zoo, e direi che balza agli occhi il nesso tra questi personaggi. Ce ne sono altrettanti e altrettanto interessanti con cui ha suonato. La sua discografia è infinita, e soprattutto se non ci fermiamo a quella ufficiale, che poi sarebbe difficile peraltro da definire, perché Eugene Chadbourne da metà degli anni 70 a ora ha prodotto un quantitativo di cassette, vinili, CD, supporti bizzarri, un quantitativo incredibile, generalmente autoprodotto con copertine meravigliose disegnate da lui, magari, insomma, bellissimo. Guardando la mole di musica che ha tirato fuori, compresa la continua improvvisazione live, tra l'altro, si ha l'impressione di una sorta di vulcano che non riesce a fare a meno di strabordare, ecco, è proprio qualcosa di irrefrenabile. Questo è Eugene Chadbourne. Non tutti i suoi pezzi sono estremamente orecchiabili, ce ne sono alcuni che sono veramente disturbanti. Ne ho raccattato uno che per l'appunto si presta perfettamente alla scaletta di oggi, che si intitola Devil on the Radio, e che in realtà invece è uno dei più anche melodici in qualche modo, il che non è proprio banale per il personaggio, ma insomma, eccovelo. He was brought up to be scared of the devil. He thought he had that all licked. He thought the angels guided his way, not the devil. So the voice on the radio must be a trick. Can anybody tell me how I'm coming in? He said, I can hear you loud and clear. You say you're the devil. Won't you please tell me who this really is? Is some teenager high on drugs saying he's the devil? You're the lie. Breakity break now. Come on. The door, scared of the devil. There were voices talking tongues in his brain. Could have been a trick, or it might have been the devil. He'll never be the same. Thank you. che puntata demoniaca. Allora, vi avevo detto che avevamo più o meno finito con le nozioni e vi avevo ingannato. D'altra parte sono entrata un po' nel mood del principe degli ingannatori e sì, non era vero, perché c'era ancora un personaggio di cui parlare, ovvero Belzebù. Sì, e dove lo lasciamo Belzebù? Non è che possiamo non lasciarlo in un cantuccio da solo, poverino, che poi si arrabbia e ve la fa pagare. Belzebù è il nome che la versione latina della Bibbia, quella che poi si chiama Vulgata, e tra l'altro l'abbiamo già citata a inizio trasmissione, il nome che appunto questa versione latina della Bibbia assegna sia alla divinità filistea, altrimenti conosciuta come Baal-Zebub, oppure Baal-Zebul, è riportata ad esempio nel secondo libro dei re, il primo è, sì, uno e boh, due, non lo so, sono numeri a caso, non lo so, appunto era riportato così. Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: Madonna, oggi non ce la fo, il diavolo mi sta facendo leggere male le cose. I farisei, ecco, siamo seri, udendo questo, presero a dire: costui scaccia i demoni in nome di Belzebù, principe dei demoni. Vangelo secondo Matteo, questa è la citazione. Nella versione greca dell'Antico Testamento, detto Septuaginta, quella, anche questa la citavamo all'inizio, il nome ebraico del dio Ekron è reso come Baal Moyan, Baal delle mosche. Il nome ebraico Ekron, che dicevamo prima, è traducibile con Baal di ciò che vola, e appunto poi invece viene un po' modificato in Baal delle mosche, mentre invece nella versione greca dei Vangeli il nome del principe dei demoni è Belzebul, appunto. L'origine del nome Belzebù non è chiara, potrebbe essere direttamente collegato al nome della divinità fenicia di Ekron, appunto quella di cui parlavamo prima, riportata in ebraico in modo distorto e denigrativo come Baal-Zebub, che, come dicevamo prima, vuol dire dio delle mosche, il signore delle mosche, che le mosche non è che sono una cosa così naif, una roba buttata lì, è che erano definite nella prima cultura ebraica come simbolo di qualcosa di fastidioso, e quindi in realtà appunto non era ben chiaro se questo signore delle mosche era una divinità, comunque un principe che andava a braccetto con le mosche, o se era in caso, cioè era in grado di aiutarti, quindi in caso di fastidio era lui che arrivava col fastidio, oppure era lui che ti aiutava a sconfiggere questo fastidio. Insomma, non è molto chiaro ancora, non è che se ne sa molto. Nell'ebraico dell'Antico Testamento compare l'espressione Baal-Zebub, signore delle mosche, appunto, che probabilmente però è una trasformazione spregiativa del principe Baal, appunto, signore della mosca, quindi qui forse almeno qualcuno lo interpreta come il signore delle mosche, cioè, come dire, no? Io non mi permetterei mai, ma insomma loro, che ne so. Altra ipotesi è che Belzebù, il nome del dio filisteo riportato nell'Antico Testamento, a cui potrebbe essere collegato appunto il nome Belzebù, Baal-Zebub appunto, sia il nome autentico, quello iniziale. E vabbè, e qui si iniziano un po' le ipotesi, diciamo che si brancola un po' nel buio, e la cosa fondamentale è che ci si chiede è cosa c'entrano le mosche, perché è vero che c'era questa accezione appunto di fastidio, un simbolo eccetera, però insomma, perché proprio le mosche, e perché poi dare questo soprannome a un'entità che poi è diventata così cruciale, così importante? Ecco, ad esempio c'è chi dice, storici dicono, ipotizzano che le mosche che si manifestano nella stagione estiva fossero dei simboli del calore solare con il quale Baal, che era anche il dio della fecondità, è in stretta relazione e fossero quindi da ritenere animali sacri. E quindi, insomma, in realtà questa divinità non è che proprio necessariamente divinità o entità fosse negativa o fastidiosa o da ricacciare, ecco. In termini umani, comunque, Belzebù sembra essere il fratello stesso di Satana, giusto per mettere i puntini su lei. Ecco, perché almeno abbiamo una genealogia ed è chiara e capiamo bene. Allora, questo termine Belzebù in realtà mi è stato suggerito da un brano che vi volevo far sentire, come spesso succede a Slick Chick, è la musica a fare da suggeritrice, e il brano è appunto Belzebù degli Zeus, l'album è Opera del 2013, quindi basta, sentiamolo. Di mosche ce le sentivo in effetti, no? L'impressione? Vabbè. Allora, Tania Tagak, ammesso che si dica così, è una Inuit, una throat singer, ovvero una cantante che usa una tecnica molto raffinata, in realtà, che predilige l'utilizzo delle ritenoidi, ovvero le false corde vocali, per enfatizzare e riempire il suono di armonici. È una tecnica chiamata anche canto armonico o overtone singing, cioè vari nomi a seconda della geografia del posto in cui lo stiamo usando. È una tecnica diffusa come usanza culturale tra alcune popolazioni mongole nella Repubblica di Tuva, in Tibet, ma poi anche più vicino a noi in Sardegna e appunto tra gli Inuit. Era proprio un'usanza culturale, ho detto così, non a caso, perché soprattutto nella Repubblica di Tuva, ma non solo, un po' ovunque in questi posti che citavo, è una tecnica che non è, non si impara di pari passo con il canto, comunque non è legata alla musica in particolare, ma è proprio un qualcosa di tradizionale, legato in particolare ai fonemi. Soprattutto nella Repubblica di Tuva i fonemi sono suoni, sono visti come suoni e cantati ognuno con una modulazione particolare delle aritenoidi, appunto. Come dicevamo prima, chi utilizza questa tecnica, che appunto è diffusa in questi paesi, ma insomma poi è stata anche chiaramente è stata iniziata a essere usata anche in Europa e nel mondo più occidentale, in genere chi la utilizza è anche in grado di produrre diplofonie o triplofonie, ovvero due o tre frequenze fondamentali udibili all'interno dello stesso suono. Demetrio Stratos, per dire, giusto per fare un esempio lampante, molto demoniaco secondo me, nel senso più accurato del termine, questa capacità, ecco. Tania Tagak, di cui parlavamo, ha fatto un brano che si intitola Sulfur, e il bello zolfo mi sembra che ci dovesse stare in questa scaletta. L'album è Retribution del 2016. Ora, in realtà voi la sentirete in questo brano che è veramente orrorifico, infatti se siete facili, se vi fate impressionare, abbassate il volume quantomeno, ma non è che si sente benissimo, si apprezza moltissimo appunto i canti armonici, il throat singing, però insomma se la cosa vi interessa e ve lo consiglio, andate a sentire un po' anche gli altri brani di Tania Tagak, dove insomma si sente tutta la sua gamma di pazzeschi suoni. Ah! se siete ancora con me, possiamo passare a, beh, non cambiare più di tanto registro, perché passiamo alla regina dei demoni, che è Diamanda Galas. Ve l'avevo citata all'inizio trasmissione e non poteva assolutamente mancare in questa scaletta demoniaca. E in particolare il brano che, beh, ce ne sarebbe veramente tanti che Diamanda Galas ha dedicato al tema, come dire, più o meno allargato, ma qui si parla di un anti-gospel satanico, lo sentirete, You Must Be Certain of the Devil, tratto dall'album omonimo del 1988, che è il capitolo finale, l'ultimo capitolo della trilogia del Mask of the Red Death, una trilogia che Diamanda Galas dedica all'AIDS. Beh, insomma, eravamo negli anni 80. E direi che oramai, con 30 anni alle spalle che ci separano perlomeno nel tempo, possiamo raccontarci e dirci tranquillamente, ammettere tranquillamente che fu un'epidemia deliberatamente lasciata diffondere, che colpiva selettivamente alcune categorie sociali di cui ci si voleva liberare e comunque di cui è stato, ci si è approfittati dell'occasione, insomma, per liberarsene. Quindi questa è insomma, leggiamolo anche in questo, Diamanda Galas, quando parlava di Satana, di diavolo, di male, insomma, aveva le idee molto chiare, insomma, lo ritroverete anche qui in You Must Be Certain of the Devil. The flies are coming, Mama, and the angels are coming. The flies are coming, Dad. The steam has all. Boggy bar. wish you don't drink whiskey. My baby, she don't drink no whiskey. And I know she ain't crazy about wine. Now it wasn't nothing but the old devil. He done changed my baby's mind. You know I could be right. You know I could be right. Then again I could be wrong. But it was nothing but the devil. He done got my baby and he done gone. Questo era il meraviglioso Skip James, Devil Got My Woman, l'album omonimo del 1968, l'ultima registrazione prima della sua morte nel 69. Il Delta Blues, i meandri delle vallate del Mississippi, le foreste nere, i riti degli schiavi, i diavoli bianchi. Quel mondo che, se volete capire cosa intendo, dovete leggere In fondo alla palude di Lansdale, ve lo consiglio assolutamente. Ma comunque vi basta anche ascoltare Skip James del resto. Ma adesso arriviamo a un altro personaggio che è un personaggio meraviglioso che io ho scoperto abbastanza di recente, devo dire, e mi si è aperto un mondo, cioè penso che ora ve lo riferirò in continuazione. Si tratta di Eartha Kitt. Pseudonimo di Eartha May Kitt. Allora, Eartha Kitt, concepita da uno stupro, cresciuta nelle piantagioni del South Carolina, madre afro-cirochi e padre forse, probabilmente, tedesco-olandese. Viene abbandonata dalla madre, ovviamente il padre che ve lo dico a fare, è abbandonata dalla madre, vittima di abusi per tutta l'infanzia perché meticcia, è costretta a vivere in un pertugio, letteralmente un pertugio sotto la casa insieme ai gatti, quando si dice che il buongiorno si vede dal mattino. Eartha Kitt cresce, diventa una cantante e un'attrice, anche una cabarettista, molte cose diventa, e tra le altre cose anche un'attivista contro la guerra, una femminista e insomma, in generale era una donna troppo intelligente per non attirare le attenzioni per anni da parte dell'FBI. Quando gli chiedono della sua affinità con la comunità LGBT, lei risponde: siamo tutte persone respinte, sappiamo cosa vuol dire sentirsi rifiutati, cosa vuol dire venire oppressi, depressi e poi accusati. Ho molto ben presente quella sensazione, al mondo non c'è niente più doloroso di quel rifiuto. D'altra parte però Eartha Kitt aveva una voce, un talento spaventosi, una di quelle donne cararmato con classe da vendere, e tra le altre cose era Catwoman, cioè veramente era presente il film, la serie anzi di Batman degli anni 60, quella con le calzamaglie, quella lì bellissima o bruttissima a seconda dei punti di vista. Ecco, lei era Catwoman, cioè voglio dire, non poteva che essere così, e quindi la mia stima proprio cresce. Beh, questo è un pezzo comunque bellissimo che oltretutto vi consiglio anche di andarvi a vedere su YouTube, si trova il video originale con lei che, più che ascoltarla, anche ascoltarla non è che non basta, però se poi vedete anche il video capite veramente un sacco di cose, è bellissimo. La canzone si chiama I Want to Be Evil, appunto, voglio essere demoniaca, voglio essere cattiva. Eartha Kitt. I

Ma perché poi moderni? Non è mica vero. Comunque, insomma, ci riascoltiamo sempre da queste parti su Radio Wombat martedì prossimo, sempre intorno alle 8. Ciao ciao! See why? Yeah.